Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Giampaolo Morelli. Molti di voi lo conosceranno perché ha interpretato in televisione l'ispettore Coliandro, ma è qui naturalmente in veste di scrittore. Ha pubblicato il suo primo romanzo, si intitola Un bravo ragazzo, pubblicato da Fazzi Editori. Partiamo subito con il protagonista di questo romanzo. Chi è Raimondo? Raimondo è un ragazzo di 16 anni, molto introverso, chiuso, innamorato della sua compagna di classe, la più carina, come spesso succede a quell'età, che in attesa, come tutti i ragazzi di quell'età, insomma, di perdere la verginità, ma come spesso succede a quell'età, però le tue compagne non te la danno perché insomma sono più interessate a quelli più grandi, ai fichi, no? I classici fichi dell'ultimo anche anno. Anche perché, diciamolo, Raimondo non è probabilmente bellissimo, insomma, è un po' imbranato, un po' sfigato come ragazzo. Sì, vive tutto in chiusura, è sfigato, si sente sfigato forse più che è sfigato. E l'unica passione che coltiva in segreto è quella della magia, quindi studia per diventare prestigiatore, in segreto, perché una volta che ha provato a fare un gioco ai suoi amici, questi lo hanno mandato a quel paese e diceva: vabbè, come, non ci spieghi il trucco, è arrivato Silvan, ma va. E quindi è solo anche poi in questa cosa. Logicamente, come tutti i ragazzi, come tutti gli adolescenti, ha gli ormoni impazziti e quindi si lancia in una serie di fantasie erotiche, pensando, che ne so, oltre alle sue compagne di classe, le professoresse, le mamme degli amici, quelle cose che abbiamo fatto un po' tutti, diciamoci la verità. E che ha fatto anche Giampaolo Morelli da adolescente. Ma sì, ma come, cioè, immagino, non lo so, tu non... Io non c'entro, l'intervista è per te, non è per me l'intervista, sì, sei tu l'intervistato. Ecco, adesso non mi inviteranno più a casa gli amici perché diranno: ah, tu hai pensato a mia madre. Però sì, come hanno fatto tutti, come ha fatto allora, anche mettiamola Giampaolo così, facciamo la domanda più canonica. Quanto c'è di autobiografico in questo romanzo? Ma in realtà molto poco, quasi niente. Se, cioè, voglio dire, la storia, gli accadimenti sono tutti inventati. È chiaro che ho cercato di scrivere di qualcosa che conosco, quindi un disagio adolescenziale io l'ho provato, quindi ci ho messo delle cose che conosco. Però io facevo parte degli adolescenti sfigati, come Raimondo, ma ero un diversamente sfigato, cioè ero un po' più in apertura rispetto a Raimondo, che invece è tutto chiuso e timido e vive, no, tutto, insomma, e vive di strategie per arrivare alla ragazza che gli piace, quindi manovrando degli amici che invece sono più abili. Siamo due sfigati diversi. Ecco, timido, un po' imbranato abbiamo definito questo personaggio, un po' anche come il personaggio che tu interpreti in televisione, mi riferisco all'ispettore Coliandro, il grande pubblico ti conosce per quello. Insomma, come mai due personaggi così simili poi nella tua carriera artistica, uno dal punto di vista televisivo e l'altro dal punto di vista invece letterario? Allora, innanzitutto ti dico anche che l'ispettore Coliandro, scritto da Carlo Lucarelli, ha scritto anche la prefazione del mio romanzo, anzi di questo lo ringrazio pubblicamente, mi ha reso felice. Diciamo che Raimondo potrebbe essere un Coliandro adolescente. E, mi piacciono, in generale mi piacciono comunque gli sfigati, gli imbranati, quelli che vogliono cambiare la loro condizione. Sono attratto da questo aspetto della personalità umana, insomma, delle persone, quelli che si sentono soli, perché io penso che in fondo tutti ci sentiamo soli e tutti vogliamo cambiare qualcosa della nostra esistenza. Così come Coliandro vuole andare in Serie A, vuole andare alla Mobile, no? Vuole sentirsi poliziotto figo, così anche Raimondo vuole uscire dal suo guscio, crescere, diventare uomo. Ecco, tu però sei percepito sicuramente come un sex symbol, come uno che è arrivato, ecco, diciamo così, eppure sei affascinato dalle personalità un po' imbranate. Come mai? Sarà che non mi sento affatto arrivato e questa cosa del sex symbol è un po' inaspettata, perché voglio dire, oltre televisione vedo dei bellissimi ragazzi, ma 10.000 volte meglio di me, e soprattutto non me l'aspettavo, perché Coliandro è un coglioncione, è un imbranatone, è uno impacciato, quindi insomma arriva un po' inaspettata sta cosa, il sex sim. Non pensavo che alle donne, ma forse perché siete masochiste, quindi siete attratte da, no? Da Quindi è quelli. colpa nostra. È un po' che colpa vostra, secondo me, un po' che colpa vostra. Allora, tornando al romanzo, il sottotitolo di questo romanzo, Un bravo ragazzo, il sottotitolo Storia di un giovane prestigiatore, e l'abbiamo già detto, erotomane, dislessico e disadattato. Insomma, il sesso è fondamentale nella vita di questo Raimondo. È un po' una Ma fissa. sì, diciamo che questi tre aggettivi ci dicono non tanto ciò che Raimondo è, ma come Raimondo si sente. È chiaro che a quell'età, ti ripeto, c'hai gli ormoni impazziti, quindi vivi nell'attesa di perdere la verginità con tutta l'ansia che comporta questa cosa, però hai una voglia incredibile di scoprire il sesso e soprattutto di non farlo più da solo. Quindi ecco che erotomane perché lui si sente, no? Dice, cioè, pensa continuamente al sesso, che è abbastanza un chiodo fisso per un adolescente. Almeno io l'ho vissuta così, i miei amici l'hanno vissuta così. Tu. Ecco, io non c'entro, io sono Io lo l'intervistatrice, quindi sapevo, lei non si mette mai in io gioco. faccio le domande, tu dai le risposte. Dislessico e disadattato, dislessico perché sai è una sorta di disfunzione dell'apprendimento, ma proprio perché Raimondo vive sempre in un mondo di sogni fantastico, eccetera. È disadattato perché a quell'età tu pensi che la scuola sia una rappresentazione della vita, per cui se a scuola non sei bravo, non hai attitudini particolari, nemmeno nello sport, nemmeno nel rimorchiare le ragazze, cioè, allora pensi che anche nella vita sarai uno sfigato e quindi un disadattato, un barbone. Lui si immagina così un barbone. Poi per fortuna invece la vita molte volte va diversamente. Infatti quei pochi che erano fichi a scuola, che, no, che gli è andata tutta liscia, poi li rivedi oggi, sono, ringraziando Dio, degli sfigati incredibili, quindi esiste una giustizia divina. A proposito di giustizia divina, ho visto in un'intervista che tu hai detto che questo romanzo è un po' una vendetta generazionale, perché tu quando eri ragazzo, quando eri adolescente, in realtà copiavi i compiti di italiano e adesso sei diventato anche scrittore. Sì, poi infatti se le mie professoresse dovessero leggerlo, no? Potrebbero dire, Avrebbero qualcosa da sì, ridire. hai visto, copiavi i compiti italiani, infatti è E una chiave infatti. che hai scritto. Però, no, io non mi definisco affatto uno scrittore, infatti il prezzo è giustificato, nel senso c'è la prefazione di Carlo Lucarelli, quindi qualcosa di letterario nel romanzo c'è, e quello che a me interessa in realtà è raccontare una storia che ti accompagni, mo, per, che ne so, 2 giorni se sei veloce a leggere, un anno se sei più lento, che però ti diverta e che ti faccia rivivere un po' quella fase dell'adolescenza. Però come mai tu da attore hai deciso un giorno io voglio scrivere un libro? Che cos'è che ti ha spinto a farlo? C'avevo questa prefazione di Carlo Lucarelli Cioè è scritta nata e io. prima la prefazione e poi E il poi, Carla, libro. mo scrivi il romanzo tu. No, c'avevo proprio voglia di raccontare la fase dell'adolescenza, che per me è una delle fasi più difficili dell'esistenza. Poi non ho provato la vecchiaia, ci sono vicino, insomma, ho 36 anni, quindi tra Beh, un poco allora. ci arrivo, gli ultimi colpi e ci arrivo. Però, secondo me, l'adolescenza è una fase molto faticosa della vita. Infatti, questo romanzo è dedicato a tutti quelli che non vorrebbero tornare adolescenti. Cioè, se siete quelli che dicono, ma quanto vorrei di nuovo avere 15 anni, non comprate il romanzo, perché secondo me è una fase schifosa dell'esistenza. Perché sei magari come Raimondo a pochi anni dalla fine della scuola, devi decidere chi sarai, che farai, però non hai attitudini particolari, non, appunto, non capisci che cosa vuoi essere, vuoi diventare, inizi a intravedere qualcosa di te. È molto difficile l'adolescenza. A proposito del pubblico al quale ti sei rivolto con questo libro, a proposito di chi potrebbe comprare e leggere questo libro, hai pensato a chi potrebbe essere il pubblico? Giovani, giovanissimi, quarantenni, ultraquarantenni o un po' tutti? È ambientato all'inizio degli anni 90, quindi però l'adolescenza è universale, quindi sicuramente tutti gli adolescenti, tutti quelli che vanno a scuola, che sono all'università, si ritroveranno sicuramente nel personaggio, nel protagonista del romanzo, Raimondo, ma anche tutti quelli come me che insomma oggi hanno 40 anni, anche di più, che hanno vissuto l'epoca dei paninari, dei metallari, quindi c'è anche tutto questo, delle scritte sugli zaini, sul Jolly Invicta, The Best in the World, Tizio e Caio Forever, tutte quelle cose là. ci sono altri libri nel cassetto di Giampaolo Morelli. Ma no, il cassetto è completamente vuoto. C'erano questi fogli, ecco, li abbiamo pubblicati. Vediamo prima, insomma, se sono stato in grado di scrivere una storia che cattura il lettore, poi vedremo. Che voto ti dai come attore e che voto ti dai come scrittore? Ma guarda, come scrittore non saprei darmi un voto, ma sicuramente non un voto alto, insomma. La sufficienza la raggiungiamo? Ma si sa, io penso che un grande scrittore, che ne so, ogni due o tre pagine ti tira fuori quella chicca che dice... Io l'ho tirata forse in tutto un libro due volte, no? Quella frase, dice, ah, questa mi è venuta bene, no? Ah, però che bravo che sono stato. Però ti ripeto, spero poi in realtà a me quello che interessa è la storia e che comunque ci si diverta. E questo, in questo credo di esserci riuscito. Come attore no, non mi do un voto, lo devono dire gli altri, che ne so, certe volte posso essere bravo e certe volte posso essere un cagnaccio. Grazie allora Giampaolo Morelli, autore di Un bravo ragazzo, pubblicato da Fazzi Editore. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.